ciao Antoni. Si nota. Che non ti conosco, oggi tu. Signor. Alle 5 e mezzo c'è la partita. Ma la guardi tu Antoni? Gioca l'Italia. Eia, alle 5 e mezzo. Me la guardo, sì, me la guardo. Capo, piazza l'antenna, me la guardo. Mamma, sto tirando un po' d'aria. Mamma mia, che caldo che c'è. Mi so, stasera mi sono stoppato, sto bevendo un sughetto con la salsiccia, oioia. Leggerino. Ah, me la fotti nuda. Olio di oliva extravergine. Così vuole. Capo. So di chi sono GP di Ciappara, no? Sto comprando quello di Kerchi, sto comprando. Quello di? Olio Kerchi. Ah, cazzo. Lo pago, ma non mi interessa a Natalì, però il prodotto è ottimo. L'olio d'oliva, se l'olio d'oliva è vero, ti lo faccio nel bagaglio. Proprio per essere a me, perché siccome c'ha la frutta e verdura e vende tutte quante queste cose pure, l'ex moglie del mio principale, me la sta facendo pagare a 7 euro al litro. Ma deve essere di chi vuole, però. Compreso, se te lo fanno pagare già è buono. Chi si vede nel supermercato chissà cosa è, a cui tu arriva. Non posso avere di nulla. Sono fatte dalla comunità europea, per pure il critto che c'è da prezzo. Non chissà cosa ci metto nel mezzo, Lo stesso olio. Lo stesso olio c'è. Come si dice? Sempre col nome sardo, però per scritto olive della comunità europea, per scritto. Ma non servi. Non servi. Poi il minimo te lo devono pagare a 8 euro di luce e bon. Se no se ti lo fai in baga di manco, non è giù arriva. Infatti. Quando la viene venduta a 8 euro il litro, a me me lo sta lasciando a 7, lo sto lasciando, ma se ti può sentire dire un profumo, cazzo, di chi c'è davvero? Sì, me lo posso immaginare. Cioè, è nuda, è mozzo di, no, se ve annuda, va. E quindi ti sei perdi l'usugo a livello. Leia! Ma non vuoi, sta entrando un po' d'aria, che è mollita tutto il fuori, aveva freddo addirittura, Ma non sa freddo che si muove a un gaggio, si sta bene, dai. Allora, ti saluto, che vado giù a fare le faccende, ok? Eia, ci sentiamo a tutti, buon tutto. Ciao, ciao. Qualcuno su 10. buonasera. No, ci sei? Oh, ci sei? Hola. Hola, attento 10, c'è qualcuno? Chi sei? Ah, ciao, non ti avevo riconosciuto, sei un bel forte di radio. Sì, sì, va bene, è un po' che non ti senti, ma hai fatto, che te ne ha fatto Claudio, non l'avevo più sentito. E poi mi fai sapere, quando c'è 5 minuti di tempo, mi informi di cosa ha fatto qua. Ne ho sentito parlare, me lo stava dicendo Danilo, lo stesso, che ti danno un nominativo per andare in banda laterale su quelle frequenze dove trasmettono questi. Un attimo. Sì, scusatemi, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, scusa Claudio, avanti che vuole entrare. Chi è che sta parlando? Lo disturbano e poi non entra. No, no, mi interessa anche a me. Ma per avere il nominativo è obbligatorio iscriversi in un club. E su che frequenza puoi trasmettere? 555 o dove? Ma è tutto regolare, cioè tutto per legge. Che è avanti, scusa un attimo, avanti che vuole entrare. Sì, chi sei? Ah, ciao Carlo, cavolo, ma l'altro giorno eri tu, scusatemi, no Claudio, eri tu Carlo che chiamavi, eri in basso di radio. Ero io, ma stavo facendo partito, adesso sto con un paracinesco, sei 9 più 10 qua, sei anche in compagnia di Claudio D'Amuro, se te lo rilancio, se ti ha ascoltato, avanti Claudio, se ascolti a Carlo. Hai sentito Carlo a Claudio? Purtroppo c'è qualcuno che disturba. Avanti Carlo. Negativo, c'è propagazione, c'è qualcuno che fa laterale, ma le io non capisco che vizio si prende, non segnale molto forte, chi lo disturba? Gli ho detto di entrare, se vuole entrare qua, il disturbo arriva a 9 più 20, Claudio è 9.15, tu sei 9.10. Carlo, ti rilascio di nuovo il mic, comunque piacere averti risentito dopo tanto. E allora che si dice di da quelle parti Carlo? Caldo, ha piovuto da poco, ma è passato, la temperatura alta, è ok, anche una domanda che era più sensibile, ma tra l'altra sera che ho sentito arrivare il treno, è solo che purtroppo il problema era mio, non riuscivo a farsi sentire, dai. Adesso così ho sistemato la telemedia un attimino, a quanto pare riesco a sentirmi. Assolutamente, se mi vuoi contraccambiare Santiago, il tuo segnale è 9 più 10, pieno la radio Super 5, dammi un rapporto anche a me, vediamo un pochettino e poi facciamo riprendere a Claudio. 9 più 10, sei sempre fortissimo, io arriverò, 9 più 10, una moderazione splendida, molto buona. Ok, ti ringrazio. Vai Claudio di nuovo a te, dice che non ti ascolta però Alghero a te Claudio. Allora, ti dico una cosa, riguardo di quell'argomento di prima, scusa un attimo Carlo che concludo il discorso con Claudio, allora se vuoi mandarmelo via mail, ricordati il mio cognome e poi aggiungi punto snc, tutto minuscolo, @tiscali.it, mi mandi le informazioni, magari se c'è un modello da compilare, Claudio qualcosa, ricordati il mio cognome, metti pure punto Sassari, Napoli, Cagliari, @tiscali.it, e QSL, chiedo conferma adesso di nuovo a te Claudio. Assolutamente, ti ringrazio. E adesso te ne stanno la serie di propagazione, ti sento forte, però c'è sempre qualcuno che disturba. Di nuovo a te Carlo. Vediamo così, è sempre la stessa cosa oppure il segnale è aumentato? 9 più 15, bomba, fortissimo, chiaro e pulito. Ma posso salutare qualche amico oppure non si può più entrare qua? No, non si può entrare, avanti qua. Ciao, buonasera a tutti, dai, dopo tanto. Ciao Claudio, finalmente ti ascolto. C'hai un segnalone qua, nella nuova casa. Complimenti. Ciao anche a Carlo Dalghi. Santiago 9, abbondante Carlo, ok? Arrivate magnificamente bene tutti. Il cambio per Claudio Di Muros, così poi lo lasciamo andare a cena. Avanti Claudio, buonasera, ben ascoltato. benissimo, Claudia, grazie. Sì, mi sono sentito con Babbo, ci abbiamo fatto una chiacchierata nel momento della pausa. Il radio ne sto facendo poca perché, come sai, la campagna è diversa dal condominio, però sto bene, dai. Ogni tanto vi seguo, ma non è che abbia molta più voglia. Non c'è bisogno di attaccare, Claudia, veramente. Mi arrivi più forte di carbonati, più forte di quando ero a Sassari. Arrivi fortissimo, 9 più 20 liscio, quando è attaccato si è andato a 9 più 30. Hai segnale di Roberto, veramente complimenti, arrivi fortissimo alla grande. Mentre Alghero arriva a Santiago 9, Carretto di Pirri, Santiago 9, cambio. Cambio, cambio, ehi, ogni tanto ci sentiamo, Claudio. No, no, anch'io, anche da me ho aumentato completamente, prima era 5 da me, è passato a 9, Claudio, Kappa, comunque anche nonostante tu sia Claudio in campagna, oltre 9, dunque, non è che sia cambiato molto. Ok, d'accordo, vai Roberto, tutto per te il cambio. Sì, sì, grazie. No, c'è qualcuno forse vuole entrare, avanti che vuole entrare, se no c'è lo disturbatore di nuovo, avanti che vuole entrare. Niente, vai tu Claudio allora. Claudio di Muros, vai, vai, così poi ti lasciamo libero, Claudio. Salutami a casa, a Babbo l'ho già sentito al telefono, salutami a mamma, a Ottavio, a tutti, naturalmente posizione. Ciao Roberto, riprendi pure, grazie. E a ciao Carlo, piacere riascoltarti dopo tanto, quando vuoi, se capita, ben volentieri, sarà di nuovo un piacere sentirti. Ok, ti auguro un buon proseguo di serata, ti rilancio a Claudio che farà girare per cioè, Claudio di Sassari, poi farà girare a Claudio di Muro. Salvati Claudio Sassari. Ciao Carlo, un abbraccio, un piacere averti riascoltato, ti ho sentito anche l'altro giorno, ci siamo salutati al nostro lavoro, già mi conosci, già lo sai che io scherzo sempre. Un abbraccio grande, fatti sentire spesso qua sul 10, quando capita ci sono sempre dei bellissimi question. Il cambio per Claudio, vai Claudio. MB più 4 che avevi provato tu con lo GAES? No, l'MB più 4 c'è la connessione diversa del Galaxy e non mi prende la... mentre il Terme più 3 che lo uso anche con l'Elbex c'ha la connessione diversa e quindi con l'adattatore 8.4 va benissimo, capito Roberto? Poi niente, ti ho fatto sentire il 60, ma insomma, già spinge, ma non come questo mi piace più la modulazione. Quanto era l'altitudine che avevi misurato, Robert, qua rispetto al Carbonazzi? Quanto c'era in più? Dovrebbe essere, se non sbaglio, intorno ai 360 metri, un'ottantina di metri in più di Carbonazzi. Qualcosa del genere, vabbè, è che c'è la vallata, ma comunque già... Li sento tutti, ascolto tutti, Ottieri mi arriva molto più forte, però è anche Muro, signor Claudio, è spettacolare, ci picchia. Caspita, Sassari Liscio mi arrivava 9.10, qua mi arriva 9 più 20 con 4 watt e 9 più 30 abbondante quando mette i 100 watt, è veramente fortissimo Claudio, fortissimo, è una bellissima radio, veramente complimenti, vai. Thank you. reazione, roba, e forse è quello che sentivi tu. C'era qualcuno che ha schiacciato la portante, ma è propagazione. Sì, sì, ma infatti io domani, che serve la macchina a mia figlia, gli ho dato poco fa una passata di pompa, così proprio una pulita, perché era completamente bianca, capito? Ok, quel difetto Romè non lo sta più facendo, non sta calando il segnale stabile, vero? Perché c'avevo il commutatore che non stava funzionando bene. No, no, sei sempre forte, quasi 9.35, qua il segnale, niente, tutto ok. Quando l'hai venduta la Vespa, scusa se ti interrompo qua, Claudio Amuros? Euro. Guarda, a me non mi interessava, però è un regalo, gli ho detto, ma c'è il prezzo. prendilo tu, perché io ce ne ho tante di moto, non mi voglio invischiare, ma quella la vendi non meno di 700-800 euro, ma proprio per volerti bene, perché quota attento nei 1000 quella moto lì, ma poi è perfetta, no? Non ha niente di nessun problema, il padrone era molto scrupoloso, sono le sacche, se ti vendi le sacche non le paghi meno di 200 euro, quelle astucci che c'ha dietro, quella specie di coso in tela, quelle sono molto rare, poi originale della Bravo, della Piaggio Bravo sono ancora di più. Ok, vediamo se è rientrato Muro, se sono riprendi tu Claudio. Molto bene, ciao Cla, saluta nuovamente a casa e poi già mi sentirò con Babbo e così facciamo una chiacchierata al telefono. Vai, ciao, un abbraccio grande, buona serata, buon tutto, buon fine domenica, avanti Roberto. Yeah, ciao Claudio Muros, anche a te, buon tutto, buon proseguo di serata, saluti a tutti in casa. Dai, poi mi aspetto quella roba che mi devi mandare. Ciao ciao, adesso facciamo un attimino di bianco, due secondi, Cla, vediamo se entra qualcuno, sono riprendi tu. Vai Cla. No, io sento propagazione, però sono in FM. Sono in FM, va bene, va bene. No, sono contento che ho sentito Claudio, ero da tanto non lo sentivo ed ero appunto curioso di vedere il segnale perché Muro se ce l'ho proprio davanti, vedo. Prima non lo vedevo da casa, la Sassi, adesso da qua vedo Muro, Scargeghe, capito, quei paesini vedo, perché praticamente sono in mezzo alla collina di Scala di Ciocca, quindi li vedo. Riprendi roba. Ok, allora la parte della vita della classe. Sì, ho visto, un bel turnover, c'è anche mio fratello andato via poco fa, perché a cena erano, devono andare a casa della cognata Sassari, quindi è venuto qua a vedere la partita, visto che era già a Sassari. Sì, gioco, insomma, un giochetto così, però essendo un turnover, essendo una seconda squadra, mi sa che stanno dimostrando quest'anno di esserci. Sì, no, sono contento che ha accontentato tutti, è stato molto intelligente, quello è un segno importante, fa giocare tutti, anche Sirigu, che non giocherà più in nazionale, perché ormai è grandetto, agli europei speriamo di andare avanti, ma non credo, a meno che non si infortuni Donnarumma, no, che lo faccia giocare, ha dato il contentino a tutti, in modo che almeno una quindicina, no, fa 15, forse una ventina di persone hanno già giocato, perché ne ha tolto 8, 8 più 11 siamo già 19, più i cambi che ha fatto 5 cambi, e diciamo sui 23-24 giocatori ha inserito, e quello è molto importante, poi è un bel gruppo, non ci sono gelosie, poi è stata una sorpresa Chiesa, mi è piaciuto tantissimo, guarda ti dico, la Juventus non mi piace, era che sempre in terra, sempre a cena, oggi ha lottato come un animale, idem Verratti è stato insuperabile, fortissimo, non mi è piaciuto qualcuno tipo Bernardeschi e Pessina, soprattutto Pessina ha sbagliato troppi palloni, però gli ha dato il contentino anche a loro, adesso quando rientrerà Barella e compagnia cantante la musica cambia, dovremmo giocare venerdì contro probabilmente o con l'Ucraina o con l'Austria e vediamo un po' poi come ci andrà avanti. Sì, mi sembra che debba giocare il 26 contro l'Ucraina, però sai, essendo una squadra che ha vinto tutte le partite, una squadra un po' temibile, è chiaro che arrivare ai giochi fatti contro Belgio, Francia, Inghilterra, Germania, il Portogallo ha tirato il gol più 4-2 dalla Germania, quindi non è una squadra temibile, la Spagna lo stesso, l'ho vista, una squadretta, non sono più le squadre forti come prima, da temere la Francia, il Belgio, la Germania, sono l'Inghilterra anche molto forte, quindi spero che riesca a fare qualcosa in più dai questa volta. Sì, no, sono sicuro, magari non è detto che vinciamo perché lì sono partite secche, se azzecchi la giornata basta un tiro in porta e vinci, oppure un autogol, un rimpallo, c'entra anche un po' la fortuna, però io vedo sempre la più pericolosa perché c'ha tre attaccanti fenomenali, la Francia, poi ci metto subito dietro la Germania come organizzazione di gioco. La Spagna è una delusione perché non ha attaccanti, un po' disordinata, e il Belgio diciamo discreta, però non la vedo tra le favorite. E poi siamo noi che possiamo battere a chiunque, dobbiamo però stare attenti alle fesserie, perché abbiamo fatto oggi un paio di errori tattici, di palle perse, e avremmo rischiato, tra parentesi, non sarebbe cambiato niente, avremmo rischiato di prendere un gol con una squadretta, perché il Galles non ha niente a che vedere con le squadre che incontreremo più avanti. Ok, di nuovo a te, Clara. C'è registrato un becco, non so se è propagazione, no, magari ce l'ho vista, potrebbe essere una squadra un po' più, però pensavo, ne parlava Giulio l'altro giorno, che fosse una squadra un po' così, ma ho visto il gioco, non è assolutamente temibile. Sì, ti hai preso, noi abbiamo giocato con i rincalzi e con la mano tirato, cioè appena spingevamo un pochettino hanno cercato di non prendere colpi. Mi dispiace, vabbè, tanto che Dubessina penso che non giocherà mai più, a meno che non ci sia qualche sostituto che si faccia male, perché abbiamo preso anche la munizione inutile, cioè eravamo contenti che non prendevamo la munizione, il difensore era abbigliato un centrocampista la munizione. Non so, però hai visto quel fallo gli ha dato il rosso diretto, un brutto fallo su Bernardeschi. Purtroppo tu mi insegni che giocare a pallone a volte bastano dei falli fatti male, o prendi la munizione o vai direttamente fuori. Sì, lo so, vabbè, ma tu fai conto che adesso lui non è titolare, ma se fosse stato un titolare, cacchio, ci serviva nelle altre partite, prendi un'altra munizione e sei fuori, con due munizioni ce l'ha fatto, un fallo a centrocampo è inutile, con la squadra schierata, che cacchio, deve essere anche più intelligente la gente quando fa queste cose. Ok, riprendi tu qua. K, non ce l'ha fatta, ma anche l'orologio c'è questa stanza di là, avevo tutto. Che ore sono? Le 8:30. Poi, allora andiamo a mettere i piedi sotto il tavolo, dai, così inizio a ritirare la roba da fuori, che già ho lasciato la pompa dell'acqua, tutto. Stavo innaffiando un po' il prato che c'è all'ingresso del cancello. L'ho rasato stamattina. Va bene Robby, dai, piacere averti risentito, saluto tutti quelli che sono in ascolto, sul 10, un abbraccio a tutti e buon fine domenica a tutti. Ci aggiorniamo domani Robby, ok? Ok, allora anche io faccio adesso, dai, che mangio qualcosa, che la fame sta facendo sentire. Ok, ciao Fla, ci sentiamo quando vuoi, saluto anche qua eventuali amici sul 10 in ascolto, URT da parte mia, ciao ciao. Ok, sei soddisfatto quindi di questa radio? Una bomba, pure troppo forte ti ho detto, hai scelto una bomba, non me l'aspettavo. Corretto Robby, chi comanda questo tipo di radio al microfono? Per esperienza vissuta, non c'è niente da fare. Il K è K, e spinge col 60, con 80, 85, qualsiasi microfono metti, però lo Iesu è un po', va un po' in crisi con 60, con i suoi microfoni, con l'MD100, con l'MD1B8, C8, sono tutti microfoni normali, capito? Quindi se tu non le metti un microfono che spinge, non te la dà la resa microfonica. E questo è l'unico microfono, perché io lo sapevo che andava molto bene. Ok, dai, così te l'ho fatto anche sentire. Ciao Robby, un abbraccio e ci sentiamo, magari ci vediamo anche domani, ciao. Finisce. Che avanti. Noi pantaloncini corti. Claudio, mi sono arrivato, ciao Robby. Quando stavo andando via, ciao Lu, vado via anche io, ciao ciao. Sì, ciao ciao, ma no. Ciao ciao Robby. Ehi Lu, andiamo già a pappare. E davvero al mare? Sì, infatti al mare, e poi per disgrazia ha piovuto anche. Però di Bossolino non c'era sole, bisogna bruciare. Intanto la temperatura era bassa, alto colpo ero al riprendo di 30 gradi, quindi non è che, anche se è coperto, sì, ha piovuto fango, ma niente di che, due goccioline, infatti mi ho rubato la macchina in aria poco fa, perché domani deve andare al lavoro, chissà la macchina di fare dei chif. Gli ho lavata e adesso vado a ritirarmi la pompa, la roba che ho lasciato fuori, e poi vado a cenare. Ok, Lu, stai arrivando fortissimo, dove sei, da mamma? Sì, sono appena arrivato a casa della mamma, yes. Io me ne accorgo, quando lo Smith sale come deve salire, a posto, dai. Perché se lo vedo più basso vuol dire che le cose stanno andando male. Poi del resto tutto ok, dai. Quindi sta aspettando quali muladussi, il dentista ancora mi ha più chiamato. Sono una settimana non mi chiamo. Sì, già ti chiamano, già ti chiamano. Sì, sul più sei, non so se io ti sto arrivando bene, arrivi molto forte. Allora qua mi sta segnando, fai un passaggio, Cla. quasi 9 più come carmati, 25 con picchi a 30, sì, dai. Sto andando con lo Iaesu. Ma sei liscio? Sì, con la potenza della radio, 30 watt di portante e 50 modulati. Sta arrivando, non sei sul più, ma sei 9, fai 9,20, dai, più o meno. Sì, già va bene, dai, già va bene. Con te un po' più di ostacoli, Rubica. Tu senti il tuo audio di muro, sei impressionante. 10 dB più forte di Sassari mi arriva, 9 più 30 pieno. Forse c'è qualche varco più buono. Va bene, dai, l'importante è ci ascoltiamo, dai. Ti saluto, saluta mamma, saluta a tutti e ci aggiorniamo. Ciao. Ehi, Acla, dai, saluto in casa anche da parte mia. Niente, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ma vediamo un po' se c'è Bombolino, Bombolino ci sei. Ma se non va, vabbè, dai, spengo pure io, ciao. Ciao, ciao, ciao, se tenete acceso mai sentiamo dopo, ciao. E vabbè, andiamo a trovare lo squelci. Ehi, poi a Berivella. Allora, lo si fattore ho messo anche. Ehi, ma mio buon quello che aveva detto è per mangiare. Ehi, a dopo, ciao, buona cena. Ciao, lei. Che purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Beh, oggi mi sono a casa, come mai, ma la giusti, di via tutti i gambi. La gente non sa di che cosa parla, no.